l'Italia è in piena recessione. Il mondo è ancora pieno di guerre. L'uomo sfrutta ancora le risorse della natura. La gente non ride più. Non si ama più, davvero. Le istituzioni religiose di tutto il mondo si sforzano di dare risposte in cui nemmeno loro credono più ormai. Io vorrei fare qualcosa. Vorrei, ma non so cosa. Su! Su! Sveglia! Sveglia! Oh, ma si può sapere cosa state facendo? Allora, ma non lo sai che sta iniziando un'altra esilarante puntata di Radio Ro? Vengono, signore e signori, vengono! Accorrano, signore e signori! C'ho il fiatone, scusate, ho fatto le scale. Si sbrigano, signore e signori! Oh, volete dare una mossa, no? Allora, ciao a tutti ragazzuoli! Mettiamo giù la pentola, sono salito con la pentola in camera per fare sta cazzata di inizio. Allora, io prima di iniziare questa puntata di Radio Ro partirei subito con i ringraziamenti, non fosse che me li sono scritti perché è una memoria che tende a zero. Quindi io soprattutto e prima di tutto e innanzi di tutto ringrazio Radio Pazza, gli amici di Radio Pazza, Bach che è stato così carino da seguirmi nella pubblicazione. Lui non sa cosa ha fatto, insomma, cosa ha innescato. Insomma, mi hanno aiutato e soprattutto hanno pubblicato la prima puntata di Radio Ro sul loro blog. Il blog che trovate l'indirizzo http://radiopazza.blogspot.com. Ringrazio anche DJ Prisma per avermi risposto mesi fa, se si ricordano, non si ricordano, non lo so, mettendo forse inconsapevolmente un tarlo nel mio cervelletto, che poi, come potete ascoltare, ha dato i suoi effetti collaterali. Ringrazio, come dicevo prima, Bach, in particolare perché mi ha spiegato come si crea un feed. Io ho realizzato il feed, anche se ancora non ho capito come funziona, però l'importante è che l'ho realizzato. Questo potrebbe sembrare una marchetta a Radio Pazza, ma siccome da Roma non sganceranno un solo centesimo per questa cosa, diciamo che è una pubblicità in simpatia. L'ultima. Dunque, partiamo con i ringraziamenti, cioè proseguiamo con i ringraziamenti. Io ringrazio mia madre per avermi fatto bello, intelligente, focoso, simpatico e pure un po' stronzo, che poi è l'asso della manica per far cadere tutte le donne ai miei piedi. Ringrazio il preservativo di mio padre, che non ha sopportato i colpi e si è spaccato giusto un secondo prima che arrivassi io, quando ancora ero piccolo e bianco e con la coda. E ringrazio anche il Duomo di Milano perché ogni volta che ci salgo incontro delle gnocche tedesche da paura. Ringrazio soprattutto voi, piccole testine disabitate, perché mi seguite nonostante tutto, nonostante fossimo in piena guerra. Come? Non lo sapevate che siamo in guerra? ma accidenti, ma se mi sembra di parlare con gente che dorme. Ah, ho capito, voi vi sentite sicuri perché c'è l'esercito che ci difende? L'esercito! L'esercito! L'esercito che ci difende. Ah, questa è proprio bella. Sì, l'esercito che ci difende. Sì, l'esercito che ci difende. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the Questo è il mio fucile, ce ne sono tanti come lui, ma questo è il mio. Il mio fucile è il mio miglior amico, è la mia vita. Io devo dominarlo come domino la mia vita. Senza di me il mio fucile non è niente, senza il mio fucile io non sono niente. Devo saper colpire il bersaglio, devo sparare meglio del mio nemico che cerca di ammazzare me. Devo sparare io prima che lui spari a me, e lo farò. Al cospetto di Dio giuro su questo credo, il mio fucile e me stesso siamo i difensori della patria, siamo i dominatori dei nostri nemici, siamo i salvatori della nostra vita e così sia, finché non ci sarà più nemico ma solo pace. Amen. Sì, amen, e anche buonanotte, perché no? Ragazzi, non preoccupatevi, non siete a una setta satanica, questa è Radio Rock. Ecco, grazie a regia che mi ha messo un po' di musica. Ti sei calmato dall'altra volta? Porca puttana, ancora mi devi pagare lo stipendio dell'altra volta. Sì, va bene, ok, lasciamo stare. Dunque, stiamo dicendo... Bambini! Bambini! Bambini, su! Entrate in classe! Bambini! Devo fare un po' di effetti scenici. Del resto sono da solo, quindi... Bambini, in silenzio! Oggi il presidente ci spiega cos'è la politica! Buongiorno bambini. Buongiorno signor preside. Sedetevi pure. Come vi ha detto la maestra, oggi vi spiego cos'è la politica, così un domani voi sarete più protetti, forse. Signor preside, mio papà dice che la politica vuol dire che loro mangiano sempre il crudo di Parma e non la mortadella, è vero? Beh, sì, in un certo senso. Ma, signor preside, mia mamma invece dice che la politica è quando quelli in televisione urlano e litigano e non li paghiamo, ma poi fuori dalla televisione loro vanno a mangiare insieme e si danno i bacini nella bocca, è vero? Diciamo che... Beh, potrebbe capitare, sì. Ma, signor preside, mi ha detto mio nonno che la politica non serve più a niente. E allora se non serve più niente, perché loro mangiano il crudo di Parma e noi la mortadella? Non possiamo fare il contrario. E poi volevo chiedere, dove si butta la politica quando finisce? Dunque, la politica non finisce, sapete, perché c'è sempre qualcuno nuovo che la fa. Quindi si riforma, ecco, ogni 4 anni, o 5, dipende dal tipo di politica. Ma signor preside, si riforma nuova tutte le volte o è sempre la stessa? Diciamo, beh, dovrebbe essere sempre nuova, ma a volte, ecco, capita che rinasca con una forma diversa, ma fatta dalle stesse persone. Ah, ho capito, è come il serpente, l'abbiamo studiato ieri. Il serpente ogni tanto cambia la pelle e lascia una pelle tutta intera che sembra un serpente morto, ma lui è scivolato via di nascosto ed è nuovo, e fa sempre così perché così nessuno lo riconosce. Sì, forse il paragone è un po' strano, ma più o meno funziona così. Ma, signor preside, Ma se anche la politica diventa nuova, ma scivola di nascosto e lascia la pelle che sembra la politica morta, tutti quelli che vediamo alla televisione chi sono? Quelli della politica nuova che è scivolata via o quelli della politica morta? Ecco, non è facile, provo a spiegarmi. Signor preside, mi scusi. Il preside cominciava a sudare. Dimmi, Paolino. Io non ho capito bene come... Cioè, che animale è questa la politica? Si mangia il crudo e ci lascia la mortadella. Urlano in televisione ma poi si danno i bacini di nascosto. Lascia tutta la pelle morta come i serpenti ma non possiamo buttarla via perché in realtà non si può, non può morire. Ma scusi, ma chi l'ha inventata? Ah, ecco, a dire il vero l'abbiamo inventata noi. Ah, bene, che bello! Come bene, Paolino? Perché dici così, scusami? Ma signor Preside, se l'abbiamo inventata noi e fa così schifo, allora possiamo cambiarla. Il preside guardò la maestra. La maestra abbassò gli occhi. Il preside posò lo sguardo sui bambini. Ma davanti a quegli occhi grandi ed innocenti che aspettavano una risposta all'ultima, illuminante affermazione del compagno Paolino, abbassò anche egli lo sguardo. Tutti erano in silenzio. Passarono i 20 secondi più lunghi della vita del preside, ma ad un certo punto, come una dea che corre in aiuto alle preghiere più disperate, suonò la campanella dell'intervallo. I bambini uscirono di corsa in corridoio a giocare e a mangiare le loro merendine. Il preside tirò un sospiro di sollievo e si asciugò la fronte con un fazzoletto tirato fuori dal taschino della giacca. Poi, infuriato, lanciò uno sguardo severo verso la maestra, che aveva ancora la testa china a cercare risposte sul pavimento, e con tono brusco ed autoritario le rovesciò addosso tutta la sua frustrazione concentrata in un unico, stupido commento. La prossima volta vengo a insegnare la geografia, è chiaro? Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una giornata molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura. Ma una dolcissima eccitazione. E poi la gente per la strada li vedi tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Perfino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un po' di sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Democrazia. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina volutamente disinvolto per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno come sono giuste le lezioni. È proprio vero che ci vuole un po' di partecipazione. Con cura appiego le mie schede, poi riguardo la matita, così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia. No, no e no. T'ho detto che lo zoo di Milano non ti ci porto, va bene? Ma papà, me l'avevi promesso. Allora non mi sono spiegato. A vedere gli impiegati tristi sulla 93 non ti ci porta, hai capito? Ma uffa, ma allora non mi fai vedere gli spacciatori della stazione centrale anche? No, Robertino, è troppo pericoloso andare alla stazione centrale la domenica pomeriggio. E non mi porti neanche a vedere le smart arroganti che fanno i sorpassi in Corso Lodi? Va bene. Ti porto in Corso Lodi a vedere i deficienti che corrono. Yuppie! Tu però non dirglielo alla mamma, perché a lei ho detto che ti portavo sui Novigli a prendere per il culo quelle che camminano sui sassi con i tacchi da 20 centimetri. Bentornati su Radio Rò, la radio che non esiste e nessuno pensa neanche lontanamente ad inventarla. Prima della fine di questa puntata volevo ricordare il mio di blog, perché pensandoci ancora non l'ho fatto, anche perché non ricordavo neanche di avere un blog. L'indirizzo completo, compreso l'inizio, è http://liberopensieroberto.blogspot.com. Ricordate che se avete idee bizzarre, interviste inventate o vere, insomma, da propormi, lettere d'amore e assegni in bianco ancora da girare, potete inviare il tutto alla mia email, che è simile al blog, è liberopensieroberto@libro.it. Vedrò di rispondere a tutti. In ogni caso, se non arriva niente, insomma, me le invento. La fantasia non manca. Direi che siamo in chiusura. A me non resta altro che salutarvi. Mie piccole testine vuote che non siete altro. Ci vediamo alla prossima puntata di Radio Rò. Azz, che finale triste. Aspetta che la rifacciamo. Allora, direi che siamo proprio in chiusura. A me non resta altro che salutarvi, mie piccole testine vuote che non siete altro. Ci vediamo alla prossima puntata sconvolgente di Radio Rò. Ma ti sei dimenticato di salutare gli ospiti, cazzone! Ah già, ci sono alcuni ospiti che vogliono salutarvi. Allora, il cittadino italiota. Ciao. Un militare. Signor, sì, signore! Giorgio Gaber. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. L'insegnante. Vai, voglio, ci vediamo alla prossima puntata. Avete ascoltato in diretta mondiale Radio Rò. Scritto da Rò. Interpretato da Rò. Montato da Rò. E se si chiama Radio Rò, un motivo dovrà pure esserci. Ci vediamo alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao!